E fu così che vissero tutti felici e contenti. Non so perché, è questo il finale che non cambia mai. Questo è liberamente tratto dalle storie molto comuni, dove gli amori sono eterni e i figli crescono alti e buoni. Questo è liberamente tratto dai pensieri di tutti i bambini, quando vanno nel mondo dei sogni per cercare un po' di verità. E fu così che vissero tutti felici e contenti, senza più stress né colpi di testa per pura follia. E fu così che vissero tutti beati e vincenti, ma da lì in poi che cosa è accaduto nessuno lo sa. Tutto quello che so immaginare è vedere boschi incantati, là dove vivono streghe impaurite e lupi in crisi d'identità. Tutto quello che potrai pensare è che forse finalmente chi è cattivo e prepotente a nessuno del male farà. Non si possono imprigionare i sogni dei bambini, ma si può spiegare loro l'illusione. Che cos'è? Non si può offrire al cuore via d'uscita continuando a raccontare una storia già finita. Questo è liberamente tratto dalle storie molto comuni, raccontate anche dai media per provare a commuoverti un po'. Questo è liberamente tratto dalle storie molto banali, dove lei che sembrava brutta si sposa sempre col figlio del re. E fu così che vissero tutti felici e contenti, senza più stress né colpi di testa per pura follia. E fu così che vissero tutti beati e vincenti, ma da lì in poi che cosa è accaduto nessuno lo sa. Non si possono imprigionare i sogni dei bambini, ma si può spiegare loro l'illusione. Che cos'è? Non si può offrire al cuore via d'uscita continuando a raccontare una storia già tratto dalle storie molto comuni, dove gli amori sono eterni e i figli crescono alti e buoni. Questo è liberamente tratto dalle storie troppo normali, perché è giusto che gli uomini a volte sognino un mondo che forse non c'è.